America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, abbiamo un po' di notizie dagli Stati Uniti. Beh, intanto ha fatto notizia il presidente francese Nicolas Sarkozy, che ha riproposto una tassa sulle transazioni finanziarie per poter finanziare certi programmi destinati ad alleviare la povertà. Si è inaugurata ieri la conferenza del Millennium alle Nazioni Unite, dunque ci sarà un dibattito multilaterale. Abbiamo avuto anche una notizia curiosa: il National Bureau of Research and Economics ha annunciato che la recessione è finita nel giugno del 2009. Ha dato anche qualche notizia relativa alla durata di questa recessione: 18 mesi, la più lunga in effetti dalla grande depressione degli anni 30. Ma oggi abbiamo con noi in studio un ospite, abbiamo il professor Sabino Cassese, professore di diritto in Italia e giudice nella nostra Corte Costituzionale. Professore, buongiorno, è un privilegio averla con noi questa mattina. Buongiorno. Lei è stato a New York qualche tempo in realtà adesso, è vero? È da un mese che sono qui. Com'è stato questo mese a New York? Pieno di impegni universitari, conferenze, seminari. La Corte Costituzionale italiana è stata al centro così di un serrato dibattito in relazione alla sentenza sul lodo Alfano e fu attaccata anche da certe parti politiche. Proprio in quel periodo, qua in America, è successa una cosa simile, nel senso che il presidente Barack Obama ha lanciato un attacco inusuale alla Corte Suprema americana perché si era espressa, secondo lui, in modo negativo, insomma, non approvava una loro decisione in materia di finanziamenti ai partiti. Tutto il mondo è paese, è lecito che ci siano questi comportamenti dialettici, secondo lei, oppure è pericoloso? In un ordinamento come quello americano direi che è quasi fisiologico, basti ricordare la grande contrapposizione che ci fu tra Franklin Delano Roosevelt e la Corte degli anni 30, e perché l'ordinamento americano è un ordinamento basato sui checks and balances, come dicono loro, cioè su una forte divisione dei poteri, con dei poteri che si contrappongono e si controllano reciprocamente. E poi io credo che sia, come dire, legittimo commentare positivamente o negativamente decisioni che naturalmente poi debbono essere rispettate, come Obama rispetta la decisione che è stata presa dalla Corte Suprema americana in materia di finanziamento delle campagne elettorali. Quindi forse da noi c'è stata una reazione un po' troppo forte quando qualcuno ha detto che magari c'era un attentato alla libertà della Corte, quando ci sono state delle reazioni politiche? Ma io preferirei non esprimermi su questo, perché stiamo parlando di questioni di misura. Dal punto di vista giuridico è chiaro che ogni potere pubblico, ivi compreso il potere delle corti e del giudice, è sottoposto a un giudizio aperto di qualunque altro potere pubblico e di qualunque persona, perché c'è libertà d'opinione, insomma. Quindi da questo punto di vista io direi che in principio non può che esserci questo criterio. Poi ci possono essere diversità di stile, diciamo, di misura, ma il punto essenziale è che in un ordinamento basato sulla divisione dei poteri e sul principio democratico, nonché sulla regola della libertà di opinione, le opinioni di tutti e i comportamenti di tutti debbono poter essere sottoposti a discussione. Ecco, io in quell'occasione intervistai un paio di costituzionalisti italiani piuttosto conosciuti. Uno è il professor Giovanni Sartori e l'altro Nicolò Zanon, professore della Statale a Milano. Ecco, Sartori, diciamo, con orientamento verso più il centro-sinistra, Zanon più verso il centro-destra. E mi colpì una cosa, perché io li interpellai proponendo l'introduzione di una metodologia americana, cioè quella dell'opinione dissenziente, la dissenting opinion, che oggi non esiste nelle procedure della nostra Corte,